Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Il programma prevede di parlare di Reichen globale e delle disavventure di tre praghesi a Brescia, nonché prevede una difesa di Achille.